Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Non ci resta altro che ringraziarvi per l'attenzione, augurarvi una buona giornata, ringraziare Walter per la regia e rinnovarvi l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora. Senza fallo, ci sentiamo.